Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Si infittiscono gli incontri e le riunioni in vista di domani, quando Letta sarà alle Camere per la fiducia. Il Presidente del Consiglio è in cerca di una nuova maggioranza. Il PDL è di nuovo riunito a Palazzo Grazioli. Confindustria avverte, nel frattempo l'instabilità potrebbe costare un punto di PIL nel 2014. Tensioni limitate oggi sui titoli di Stato. L'Istat diffonde i dati sulla disoccupazione. Quella giovanile sfonda quota 40%. Parte il G8 del Papa, 3 giorni di riunione dei cardinali per riformare la curia. Intanto Bergoglio rilascia un'intervista a Repubblica. Basta con il clericalismo, dice, basta con i cortigiani. Inizia il cosiddetto shutdown, ossia la chiusura delle agenzie federali americane per il mancato accordo tra repubblicani e democratici sul budget, a rischio gli stipendi di migliaia di lavoratori pubblici. L'anfiteatro di Pompei affittato per una cena, 15.000 euro il prezzo. Scoppia subito la polemica tra favorevoli e contrari ad un uso diverso del patrimonio culturale. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno. Proprio alla vicenda di Pompei dedicheremo una parte di dibattito nella seconda parte della trasmissione. Potete intervenire sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Iniziamo però dalla grande confusione sotto il cielo della politica italiana, mentre cresce la preoccupazione per gli effetti economici di questa crisi di governo. La giornata vede un intervento di Confindustria di pochi minuti fa, nel quale si prevede che una nuova ondata di instabilità parlamentare peggiorerebbe nettamente lo scenario economico del nostro paese. Il PIL scenderebbe dell'1,8% nel 2013 e dello 0,3% nel 2014, contro il meno 1,6% e più 0,7% previsti meno di un mese fa. L'Istat diffonde nel frattempo i dati sulla disoccupazione, quella giovanile arriva al 40%. A mezzanotte intanto è scattato l'aumento dell'IVA e quindi noi siamo partiti con un nuovo conto alla rovescia, lo sentirete alla fine della trasmissione. La crisi crea dubbi sul futuro della politica economica e questo è un altro dei temi che affronteremo. Ma iniziamo dal punto politico di questa giornata, nell'attesa di domani, quando il Presidente del Consiglio Letta si presenterà alle Camere per il voto di fiducia. Iniziamo da lui, ancora una volta, da Napolitano, Vincenzo Miglietta da Montecitorio, buongiorno. Simone, buongiorno. Partirei riassumendo il ragionamento che il Premier Enrico Letta avrebbe fatto ai suoi collaboratori. Una fiducia finta non serve al Paese perché renderebbe il governo ostaggio dei ricatti di Berlusconi. Dobbiamo tenere in considerazione questo per capire allora a cosa punta il Presidente del Consiglio con il suo passaggio domani in Parlamento. L'obiettivo di Letta è quello di continuare a garantire la stabilità al Paese. Per fare ciò servono comunque i voti dei moderati del Popolo della Libertà. Loro il Presidente del Consiglio ricorderà quanto fatto nell'esperienza delle larghe intese, dagli ammortizzatori sociali all'avvio delle riforme, quanto resta da fare dall'IMU alla legge di stabilità. Quanto alla fiducia, Letta aspetta di sentire il dibattito domani, prima al Senato e poi alla Camera. La porrà solo se convinto di avere un appoggio ampio e duraturo. In caso contrario ha già fatto sapere che salirà al Quirinale per le dimissioni. L'attuale Premier non sarebbe disponibile infatti a traghettare il Paese per un governo elettorale o di scopo, ma vorrebbe avere le mani libere per giocarsi la Premiership nel centro-sinistra con Matteo Renzi. Altro capitolo, le preoccupazioni del Colle, il clima fanno notare dal Quirinale, è ormai compromesso, ecco perché la priorità diventa la legge elettorale. E da Roma è tutto. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta, attenzione concentrata anche oggi, come potrete ben immaginare, soprattutto sulle mosse del PDL, nuova riunione a Palazzo Grazioli dopo che quella di ieri si è conclusa con sostanzialmente un monologo del Cavaliere, senza che alcuno dello Stato Maggiore del partito potesse intervenire. Elisabetta Fiorito, anche lei in diretta da Montecitorio, buongiorno Elisabetta. Buongiorno Simone, sì, insomma il partito, il blocco monolitico PDL non esiste più, anzi si parla anche di una possibile scissione di una quota di parlamentari PDL, c'è un nuovo vertice a Palazzo Grazioli in questi minuti per evitare proprio la defezione di quelle che sono dette le colombe con il voto di fiducia di domani al Senato. Partecipa in un faccia a faccia il falco Dennis Verdini e la colomba Angelino Alfano, artefici ieri notte anche di uno scontro proprio con Silvio Berlusconi sul comportamento da tenere nel voto di fiducia. La riunione infatti serve proprio a capire quale linea sceglierà il partito. Alfano insiste perché si ascolti prima Letta su giustizia, economia, riforme e amnistia e poi si decide. Una posizione ribadita da Maurizio Lupi: sono ottimista sulla tenuta del governo, dice il ministro PDL, e c'è chi parla anche però oramai proprio di scissione. Per Berlusconi bisogna votare legge di stabilità, IMU e IVA e poi il voto. Scoppia infine la polemica per la telefonata trasmessa da Piazza Pulita in cui Berlusconi riferiva di voci riguardo all'interessamento del capo dello Stato Giorgio Napolitano sulla sentenza per il lodo Mondadori. Il conduttore Corrado Formigli riferisce che la telefonata non è stata intercettata ed è una vera notizia. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. E veniamo all'altro lato politico, anzi gli altri due lati politici, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle. Tutto sembrerebbe, pur nelle tensioni, calmo e tranquillo, probabilmente non è così. Guarda alla situazione nel Popolo delle Libertà, il Partito Democratico, in attesa di capire quali saranno le mosse di Alfano e delle colombe del partito di Berlusconi. Per fare il punto, il segretario Epifani stasera riunirà i gruppi parlamentari. Nei democratici la convinzione è che il governo potrà andare avanti soltanto se nel centrodestra ci saranno novità rilevanti, come una scissione e un sostegno dei moderati ad un Letta bis. In caso contrario l'ipotesi è quella di un esecutivo di scopo, ma niente governicchi, altrimenti meglio il voto anticipato. Una linea sposata anche da Renzi, che ha comunque deciso di non parlare prima del discorso di Letta in Parlamento. Franceschini invece ieri ha respinto, giudicandola inaccettabile anche perché impossibile da realizzare, la proposta di Berlusconi di approvare in una settimana legge di stabilità e provvedimenti su IVA e IMU per poi tornare alle urne. No ad un Letta bis né ad un governo di scopo è invece la posizione dei 5 Stelle, che nonostante qualche tensione con i dissidenti chiedono elezioni anticipate. Così Morra. Movimento è assolutamente compatto anche ieri nella congiunta che ha fatto seguito all'assemblea di noi senatori. Si sono ribadite posizioni di assoluta fermezza determinata dal fatto che nel nostro esser nati c'è la volontà di abbattere il sistema partitocratico. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il punto di Stefano Folli. Ormai è chiaro che è questione di coraggio e di capire che il momento è adesso. Parliamo dei famosi moderati del centrodestra. Hanno la possibilità di dimostrare che esistono, uscendo allo scoperto domani in Parlamento, quando si tratterà di sostenere un governo che può non piacere, che commette errori ed è pieno di limiti, ma che oggi rappresenta un'opzione di serietà europea. L'unica in campo rispetto alla deriva inquietante di Berlusconi. La conversazione diffamatoria contro il capo dello Stato, diffusa dalla Sette, è la conferma che stiamo uscendo dal seminato. Un'avventura estremista legata alla parabola di un leader al tramonto acquista sempre più connotati vagamente eversivi. A questo punto occorre che il chiarimento sia autentico e che i celebrati moderati del PDL dimostrino che non sono tali solo quando occupano le poltrone. Come diceva un vecchio slogan, se non ora, quando? E torneremo sulla situazione politica più avanti, andremo a vedere tanto la posizione dei renziani quanto soprattutto le questioni economiche, insomma che cosa salta, che cosa rischia di saltare con questa crisi di governo. Noi passiamo a parlare anche oggi di Vaticano, perché Papa Francesco ha concelebrato la messa a Santa Marta con i porporati del cosiddetto Consiglio dei Cardinali, che da oggi si riunisce in Vaticano con lui fino a giovedì. Nell'omelia del Pontefice ha auspicato che queste riunioni rendano tutti più umili e fiduciosi in Dio, affinché la Chiesa possa dare una bella testimonianza alla gente. Sentiamo. C'è chi l'ha ribattezzato il G8 del Papa, una tre giorni che in quel di Santa Marta, quartier generale di Francesco, riunirà da mattina a sera con il Pontefice fino a giovedì gli 8 cardinali che fanno parte del Consiglio Permanente voluto per riformare la Chiesa. Tra loro l'italiano Bertello, il cileno Errazuriz Ossa, l'indiano Gracias, il tedesco Marx, il congolese Pasinia, l'americano O'Malley, l'australiano Pell, l'honduregno Maradiaga, coadiuvati dal segretario Marcello Semeraro, vescovo di Albano. si sono già incontrati in modo informale diverse volte i porporati e al Papa hanno già sottoposto numerose proposte. Ma ora la loro missione entra nel vivo. Maggiore collegialità e riforma della Curia, le priorità su cui i cardinali, che non hanno però potere decisionale, lavoreranno, pensando all'accorpamento di dicasteri e alla riforma del Sinodo dei Vescovi, per costruire una Chiesa che abbia una struttura non solo verticistica, che torni ad essere comunità del popolo, quell'ospedale da campo pronto ad accogliere più che a censurare. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel giorno nel quale il Papa riunisce gli 8 cardinali che lo aiuteranno a riformare la Curia, Francesco risponde su Repubblica alle domande del fondatore Eugenio Scalfari. La Chiesa, ha detto Bergoglio, deve aprirsi alla modernità e non deve occuparsi di politica. Basta con il clericalismo e basta con i cortigiani. La Corte è, secondo Bergoglio, la lebbra del papato. Per il Pontefice, inoltre, i più gravi dei mali che affliggono il mondo sono la disoccupazione dei giovani e la solitudine in cui vengono lasciati i vecchi. E il liberismo selvaggio rende i deboli più deboli e i forti più forti. La cronaca, polizia di Ragusa, carabinieri e guardia di finanza di Modica hanno fermato 7 siriani, sono ritenuti componenti dell'equipaggio del peschereccio con 160 migranti a bordo, tutti eritrei, 13 dei quali sono morti annegati durante lo sbarco su una spiaggia di Scicli nel Ragusano, ne abbiamo parlato, lo ricorderete, ieri. È stato contestato il reato di morte a seguito dell'evento criminoso perché non ci sono ancora prove che gli scafisti abbiano costretto i migranti a scendere dalla barca. L'ex calciatore del Napoli, Gaetano Musella, è stato ritrovato morto sulla scogliera di Caprazoppa, finale Ligure, una località conosciuta come meta di incontri omosessuali. Al momento del ritrovamento, avvenuto ieri pomeriggio, Musella indossava solo una maglietta e un paio di infradito. I primi esami del medico legale non hanno riscontrato lesioni e in realtà attribuiscono il decesso ad un arresto cardiocircolatorio. Nel pomeriggio verrà eseguita l'autopsia. Si avvicina la campagna dei vaccini contro l'influenza. Lo scorso anno l'ASL di Milano aveva registrato un calo del 25%. A sottrarsi non sono solamente anziani e malati cronici, ma anche i medici. Claudia Vanni ha chiesto il perché al dottor Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università di Milano. È una problematica che stiamo vedendo in senso generale in questi ultimi anni e di rifiuto, per esempio, alle vaccinazioni obbligatorie, che sono vissute come un aspetto coercitivo, e una negativa, a volte anche da stessi medici o sanitari, percezione di effetti presunti, mai dimostrati, di grosse patologie neurologiche o problematiche psichiatriche che siano state causate dalla vaccinazione. Perché il medico non si vaccina? È, a mio avviso, una scarsa attitudine del medico di conoscenza, ma anche della non percezione della gravità della malattia e direi anche di un certa quota di egoismo, perché il medico e l'infermiere è colui che può infettare il proprio assistito. Quando inizierà ufficialmente la campagna vaccini? Da metà ottobre fino alla fine del mese di dicembre, perché la stagione influenzale vera e propria ce l'aspettiamo nei periodi più freddi. Nessuna doppia bomba, nessun'altra inchiesta. Il GIP di Milano Fabrizio D'Arcangelo ha archiviato anche gli ultimi fascicoli aperti sulla strage di Piazza Fontana, accogliendo la richiesta della procura. Arianna Filippini ha intervistato Carlo Arnoldi, presidente dell'Associazione delle Vittime. L'archiviazione ci dà fastidio, però era un po' nell'aria, non aspettavamo più di tanto. Per noi i colpevoli non ci sono dentro, però i colpevoli ci sono perché la verità su Piazza Fontana c'è, noi andiamo avanti da anni a portare avanti la nostra verità. Preda e Ventura sono stati ritenuti mandanti di tutte le bombe del 69 e questo è scritto dal 2005 nell'ultimo processo di Cassazione. Il GIP ha scritto che l'insoddisfazione giuridico-sociale non può portare a protrarre all'infinito indagini prive di fondamento, come commentate? Commentiamo che siamo delusi perché non è vero che sono prive di fondamento, perché dal processo di Brescia qualcosa è saltato fuori dal nostro processo a Milano, probabilmente non si vuole più andare avanti dopo 44 anni, noi però con la nostra associazione andiamo avanti, la nostra battaglia è far conoscere ai giovani quello che è successo col 12 dicembre. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa per la viabilità, ci ritroviamo però subito dopo. In questi giorni di cambio di palinsesto, insomma, vale la pena ricordarlo. Per quanto riguarda Europa 24, la troverete dopo il giornale radio alle 14 e non al consueto orario, insomma, quello nel quale siete stati abituati a sentirla fino ad oggi. C'è già Gigi Donelli dietro il vetro che si sta preparando. Ci sentiamo dopo la viabilità. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Si infittiscono gli incontri in queste ore che precedono l'intervento del Presidente del Consiglio Enrico Letta, prima al Senato poi alla Camera, per ottenere la fiducia. In questo momento è riunito il Popolo delle Libertà di nuovo a Palazzo Grazioli. Il Presidente del Consiglio appunto è alla ricerca di una nuova maggioranza. Nel frattempo c'è l'avvertimento di Confindustria che dice l'instabilità potrebbe costare un punto di PIL nel 2014. Da un più 0,7% che era la previsione iniziale si potrebbe passare a un meno 0,3% di crescita, quindi in questo caso di calo del PIL. Le tensioni oggi sui titoli di Stato sono limitate. Sempre in tema economico arrivano i dati dell'Istat sulla disoccupazione, con quella giovane che sfonda quota 40%. È iniziato oggi, inizia oggi il cosiddetto G8 del Papa, 3 giorni di riunione degli 8 cardinali appunto chiamati a riformare la curia. Nel frattempo Bergoglio ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica, dice basta con il clericalismo e basta con i cortigiani. Anfiteatro di Pompei affittato per una cena, 15.000 euro il prezzo. È scoppiata subito la polemica tra favorevoli e contrari ad un uso diverso del patrimonio culturale. La polizia di Ragusa, i carabinieri e la guardia di finanza hanno fermato 7 siriani, sarebbero i componenti dell'equipaggio del peschereccio con 160 migranti a bordo, 13 dei quali sono morti annegati durante lo sbarco su una spiaggia di Scicli. Noi adesso però andiamo negli Stati Uniti. Allora, questo è un pezzo di qualche tempo fa, perché vi ricorderete, ne abbiamo già parlato ampiamente ai microfoni di Radio 24 del problema dell'innalzamento del tetto del debito negli Stati Uniti. Ci sono due questioni collegate in queste ore, una è questa e l'altra è quella del budget. È di questo che vogliamo parlare. Ci ritornerà naturalmente Mario Platero alle 13.45 in America 24. Qua vogliamo fare una cosa, per così dire, educational. Vogliamo veramente capire di che cosa si parla. Giuseppe Ragusa, economista alla LUISS, buongiorno. Buongiorno. Che cos'è lo shutdown? Lo shutdown letteralmente è lo spegnimento del governo federale americano, che non è più in grado di funzionare. Andiamo un po' sulla pratica. Oggi all'apertura, quando in America sarà giorno, è giorno nella costa est, non ancora nella costa ovest, molte strutture del governo federale non apriranno. Faccio un po' di esempi: il Department of Labor, che è il Ministero del Lavoro, rimarrà chiuso e rimarranno a casa 16.000 impiegati, così come il Department of Treasury, il Ministero del Tesoro, 112.000 impiegati rimarranno a casa perché i cancelli del Treasury rimarranno chiusi. La NASA, la storica NASA, rimarrà chiusa, 18.000 impiegati a casa. Altre parti del governo federale rimangono aperte perché hanno a che fare con la sicurezza nazionale, quindi ad esempio l'FBI e l'NSA rimangono aperti, ma sostanzialmente shutdown è questo: il governo federale oggi non può funzionare. Ragusa, perché avviene lo shutdown? Beh, la risposta semplice a questo è, si può essere sintetizzata in questa maniera: ogni anno il governo federale americano deve passare delle leggi, si chiamano appropriation bill, e queste leggi stanziano dei fondi alle varie strutture federali perché possano funzionare. Quest'anno il governo, il Parlamento, non è riuscito a varare in tempo queste leggi e quindi automaticamente, non avendo possibilità di spendere fondi, le strutture federali verranno chiuse e sono oggi chiuse. Quanto può costare questa vicenda agli Stati Uniti? Beh, può costare tantissimo. Intanto bisogna capire che lo shutdown in questo momento è attribuibile all'incapacità delle forze rappresentate nel Congresso americano di trovare un accordo. Noi siamo italiani e sappiamo benissimo quanto è costoso l'incapacità di trovare delle soluzioni e degli accordi. Quindi c'è, diciamo, il primo costo è quello di reputazione, ma poi c'è anche un costo diretto. Le stime parlano di 0,2 punti di PIL americano per ogni giorno di shutdown. Se si andrà avanti per 21 giorni, l'altra volta che lo shutdown è avvenuto nel 1996, il costo potrebbe essere enorme, all'incirca 6 miliardi di dollari. Cosa ha a che fare questa vicenda con l'innalzamento del tetto del debito, che ha scadenza, lo ricordiamo, altro punto importantissimo, tra 2 settimane? Beh, sono in realtà 2 facce della stessa medaglia. Ricordiamo che l'innalzamento del tetto del debito è un meccanismo per il quale il Congresso deve di volta in volta votare la capacità degli Stati Uniti di prendere a prestito emettendo debito. Di solito era una votazione di routine, chiaramente quando c'è molta instabilità politica, molta polarizzazione, è difficile che questo tetto venga innalzato, ma in particolare quello che succede adesso è che i repubblicani hanno come obiettivo politico quello di cancellare la riforma della sanità voluta da Obama e mettono sul piatto la possibilità di innalzare il tetto e vogliono come contropartita l'abolizione della legge di Obama. Chiaramente i democratici sono contrari e questo provoca un completo gridlock, come direbbero gli americani, un completo blocco di qualsiasi tipo di collaborazione fra i 2 partiti maggiori americani. Grazie a Giuseppe Ragusa, economista alla LUIS, anche per la sua chiarezza. Noi passiamo a parlare di altro argomento, parliamo sempre di governo, ma in questo caso di governo italiano, parliamo sempre di leggi di bilancio, ma in questo caso della legge di bilancio italiana. Marco Rogari, del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Naturalmente siamo appesi, e tra poco ci torneremo, alla crisi politica, perché la crisi politica può avere effetti su come viene composta questa legge di stabilità. Dunque, oggi avete elaborato delle ipotesi, no? Sul Sole 24 Ore, cioè dall'ipotesi minimale a quella nella quale ci sia un governo nei pieni poteri. Ci puoi dare un'idea di massima da questo punto di vista? Sì, è così, dipenderà molto da quello che accade per l'appunto domani con la verifica chiesta del Rio Letta in Parlamento e nei giorni successivi. In cui si dovesse andare, scusate, a un governo sfiduciato e quindi in amministrazione ordinaria, è ovvio a quel punto che la legge di stabilità, che sarà comunque varata entro il 15 ottobre come previsto, sarà una legge, come posso dire, light, con soltanto le tabelle, i numeri per definire l'impianto contabile, ma senza interventi strutturali e senza quindi le misure per lo sviluppo che sono attese da tempo e su cui anche Confindustria e sindacati hanno esercitato nelle scorse settimane il pressing sul governo. Marco, cosa doveva entrare in questa legge di stabilità? Ricordiamolo, c'è questa benedetta seconda rata dell'IMU e poi il famoso taglio del cuneo fiscale. Sì, nella legge di stabilità anzitutto il taglio del cuneo fiscale, si stava lavorando a una doppia opzione, agire su un aumento delle deduzioni IRAP che erano state già oggetto della scorsa legge di stabilità e sui cosiddetti premi INAIL. Questa era l'idea al quale stavano lavorando i tecnici del Ministero dell'Economia e del Lavoro. Quanto alla service tax, era un problema collegato alla legge di stabilità, ma non di legge di stabilità, nel senso che la service tax era prevista la riforma, ovviamente dal 2014, da inserire nella legge di stabilità, ma bisognava, come posso dire, raccordare questa partita con quella del pagamento della seconda rata IMU, quella di dicembre, per la quale ora non si sa più nulla. Grazie a Marco Rogari del Sole 24 Ore per averci fatto questo punto, e io vi ricordo che proprio a tutte queste vicende è legato il nostro nuovo conto alla rovescia che sentirete alla fine della trasmissione. Restate in ascolto. Restiamo sulla crisi, ma in questo frangente dal lato più strettamente e squisitamente politico. Dario Nardella, deputato del Partito Democratico, renziano. Buongiorno Nardella. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Allora, come la vedete voi? Come la vedete voi, se ci consente di dirlo, renziani? Perché oggi sta quello che abbiamo letto nei soliti e consueti retroscena è Renzi vuole un governo di scopo e poi al voto a marzo. Che ci dice? Guardi, io starei ai fatti. Cercherei di seguire il meno possibile retroscena, anche perché ora davvero gli italiani si aspettano chiarezza e serietà. Allora, il punto è che domani il presidente Letta chiederà la fiducia, il Partito Democratico è pronto a votarla compatto, l'Italia ha bisogno di un governo che faccia cose decisive, avete parlato prima della riforma fiscale, pensiamo alle misure sul lavoro. Per fare queste riforme ha bisogno di una maggioranza coesa e seria. Se ci saranno queste condizioni, penso che Letta sarà pronto ad andare avanti. Se non ci saranno, vedremo, sarà il capo dello Stato che dovrà poi trarre le conseguenze, però non ci sono secondi fini se non quello di avere un governo che lavori veramente per l'Italia, e ci auguriamo che il PDL, una volta tanto in questo caso, non anteponga interessi di un senatore a quelli di tutta l'Italia. Un governo, per così dire, di transfughi, per cui sostenuto anche da transfughi, cioè nel quale mettiamo ci siano una quindicina, una ventina di senatori del PDL, adesso i conti, devo essere sincero, non ce li ho esattamente. Sareste, vi andrebbe bene? Le andrebbe bene? La convincerebbe? Ma guardi, questo non lo devo dire, non sta a me dirlo, vedremo cosa dirà il presidente Letta, però è chiaro che non si possono fare, come ha detto il segretario Zani, strane tattiche o sotterfugi raccattando qua e là qualche senatore. Deve esserci una maggioranza chiara, vi devono essere delle motivazioni politiche forti con cui i senatori domani in Parlamento votano il governo. Chiamateli come volete, insomma, ma è chiaro che devono essere numeri importanti e soprattutto non devono esservi ragioni di convenienza di parte per costruire la maggioranza di cui ha bisogno l'Italia. Grazie Dario Nardella, deputato del Partito Democratico, vicino a Matteo Renzi, grazie per essere stato con noi e buona giornata. Arrivederci. Noi adesso ci fermiamo per una pausa, c'è anche in mezzo l'aggiornamento realizzato dai colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, sui mercati, particolarmente importante in questi giorni, anche se come avete visto i titoli di Stato non si sono mossi particolarmente, nemmeno nella giornata di oggi, tutti i dettagli tra poco, poi ci ritroveremo e parleremo di questa vicenda di Pompei, l'anfiteatro di Pompei, affittato per una cena a 15.000 euro. Scattano già le polemiche tra chi dice il patrimonio culturale non si tocca e non può essere toccato da iniziative commerciali di questo tipo, e chi dice invece sono soldi e quindi vanno bene, perché se poi servono appunto per rimettere a posto le cose sono buoni. Ne stiamo discutendo anche sulla pagina Facebook della trasmissione, www.facebook.com/effettogiorno, oppure se volete potete scrivermi su Twitter, Simone Spezia. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il Presidente del Consiglio Letta sarà domani alle Camere per la fiducia, sta cercando una nuova maggioranza, il PDL è di nuovo riunito a Palazzo Grazioli, Berlusconi sta tentando di evitare lo strappo anche con i ministri, un gruppo consistente del partito, si sussurra e si mormora in queste ore, potrebbe sganciarsi e votare la fiducia all'esecutivo. Intanto arrivano nuovi dati preoccupanti sull'economia. L'Istat innanzitutto diffonde i dati sulla disoccupazione, quella giovanile sfonda quota 40%, mentre Confindustria avverte che l'instabilità potrebbe costare molto, soprattutto per quanto riguarda il 2014. Il prodotto interno lordo, in caso di proseguio dell'instabilità parlamentare, potrebbe scendere dello 0,3% contro una stima di un più 0,7% iniziale. Inizia la 3 giorni di riunione di 8 cardinali chiamati a ragionare sulla riforma della curia, il cosiddetto G8 del Papa. Nel frattempo lo stesso Papa ha rilasciato un'intervista a Repubblica. Basta con il clericalismo, dice, e basta con i cortigiani. È iniziato lo shutdown, ossia la chiusura delle agenzie federali americane per il mancato accordo tra repubblicani e democratici sul budget. A rischio gli stipendi di migliaia di lavoratori pubblici. Adesso inizierà anche il dibattito sull'innalzamento del tetto del debito. Si dovrebbe chiudere entro 2 settimane. E adesso ci fermiamo, o meglio, ci fermiamo. Continuiamo a parlare di notizie, nella fattispecie di una notizia che ha fatto molto discutere. Allora, vediamo chi ha buon orecchio, questi sono i Pink Floyd, disco e video soprattutto meraviglioso. Un vero e proprio film era Live at Pompeii, che non era un live, nel senso che era una registrazione, non era un vero e proprio concerto, era una registrazione. La scena meravigliosa di loro che suonano proprio nell'anfiteatro di Pompei, al centro delle polemiche in queste ore. Perché? Perché la cena degli agenti di Fondiaria Sai si è svolta là, con i tendoni e tutto, al prezzo di 15.000 euro. Ne state dibattendo anche sulla pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Molti di voi mi dicono, il punto sono i soldi, e sono un po' pochi 15.000 euro. Tommaso Montanari, associato di storia dell'arte moderna all'Università degli Studi di Napoli Federico II, blogger sul fattoquotidiano.it e anche consulente del ministro adesso, Montanari. Buonasera. Buonasera, lo è. Sì. Faccio parte di una commissione che dovrebbe cercare di riformare il Ministero per i Beni Culturali. Che dice su questa cosa di Pompei? Ma dico che il problema non sono i soldi, certo, però il problema è anche quello. Proprio qua a Radio 24 Priatore disse che per una cena degli Uffizi bisognava spendere tra i 300 e i 600 mila euro invece che i 30 mila che chiedeva la sovrintendenza. Questo può essere un problema. Dal mio punto di vista il vero problema è un altro, cioè che questo uso del patrimonio culturale nega, contraddice il valore immateriale, morale del patrimonio, cioè per salvarlo materialmente lo distruggiamo moralmente, e ci dobbiamo secondo me chiedere se questa è la strada giusta. Salvatore Carruba, giornalista, è stato tra l'altro anche assessore alla cultura del Comune di Milano, insomma è un collega del Sole 24 Ore. Salvatore, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Tu come la vedi invece? Ma io sono leggermente meno negativo e sarei invece più attento al valore della cifra richiesta. Personalmente nella mia esperienza di vita ho partecipato a diverse cene molto importanti, sontuose, che si svolgevano al Louvre, al Victoria and Albert Museum, alla Free Collection, al Metropolitan Museum. Erano tutte cene di questo genere, organizzate per presentare dei prodotti, per presentare spesso dei prodotti culturali. Erano, ripeto, molto eleganti, molto raffinate, non so quanto pagassero, però non si sentiva sminuiti nella dignità del luogo in cui ci si trovava. Questo per sottolineare che all'estero una prassi di questo genere è abbastanza normale. Certo, non tutte le sere si fanno cene al Louvre, però la cosa è prevista e non è considerato un principio che offenda la santità e l'importanza anche del valore immateriale, come diceva adesso il professor Montanari, che va tutelato. Ci scrive qualcuno su Facebook. Allora, Sergio nota la stessa cosa che dicevi tu: all'estero i luoghi storici di prestigio si affittano regolarmente a prezzi salatissimi. E ancora Alessio: non capisco perché dobbiamo suicidarci bollando ogni opportunità per valorizzare i nostri gioielli come svendite. Grazia Spinosa dice: hanno fatto benissimo, anzi è poco, ma pian piano arriveremo alle cifre giuste e alle regole per la salvaguardia. Cosa obietta Montanari a Carruba e a questi ascoltatori, che le devo dire, magari perché sono i nostri ascoltatori, però sono in maggioranza? Allora, diciamo, all'estero si fanno queste cose, ma si fanno in modo diverso. Al Louvre non si cena fra i quadri, come se invece si è fatto agli Uffizi tra le statue e i quadri. Ci sono dei luoghi che non sono quelli delle opere esposte. Al Teatro Grande di Pompei va benissimo fare un concerto dei film, un concerto, registrare i Pink Floyd, va benissimo un concerto di Riccardo Muti, cioè va benissimo tutto quello, secondo me, che fa avvicinare i cittadini, fa vivere il patrimonio, che non si vuole mettere sotto una campana di vetro e non si vuole isolare. Il nostro paese è diverso però da tutti gli altri, perché il nostro paese è l'unico che mette il patrimonio monumentale, il patrimonio storico e artistico fra i principi fondamentali non della nostra vita culturale ma della nostra vita civile. Perché? Perché il patrimonio è un potentissimo fattore di inclusione sociale, di eguaglianza sociale, che è il programma della nostra Costituzione, che ci piaccia o no. Se noi lo rendiamo un'attrazione a pagamento, lo rendiamo letteralmente esclusivo, e questo contraddice la missione del patrimonio. C'è un'importante corrente di pensiero, non nella Russia post-sovietica, ma negli Stati Uniti d'America, penso al bellissimo libro di Michael Sandel che insegna teoria del governo ad Harvard, che è stato appena tradotto da Feltrinelli, che si chiama Quello che il denaro non può comprare, dove si parla del fatto che simbolicamente alcune cose non dovrebbero essere sottratte alla possibilità di essere Montanari, comprate. Montanari, il punto è chiaro, faccio chiudere Carruba. Salvatore, in 30 secondi se riesci. L'obiezione è questa, che in realtà il nostro patrimonio culturale, che è così ricco e diffuso, è uno dei meno inclusivi del mondo, perché tutte le statistiche dimostrano che il consumo di cultura è appannaggio dei ceti medio ricchi, dei ceti medio alti. E quindi questo principio stabilito dalla Costituzione, che io apprezzo e voglio tutelare, dovrebbe essere difeso in altro modo, portando le persone nei musei e non impedendo che i musei si aprano alla società in tutte le sue manifestazioni, che spesso sono anche manifestazioni commerciali. Grazie a Salvatore Carruba e Tommaso Montanari, anche per come sono riusciti ad essere compatti nelle loro argomentazioni. Se volete, il dibattito prosegue anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, oppure scrivetemi, se volete, su Twitter, Simone Spezia. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Riassumiamo le notizie adesso andando a dare un'occhiata a quali sono i titoli o quantomeno le cose più interessanti sui giornali online in questo momento. Allora, il Sole 24 Ore, ministri PDL pronti a votare la fiducia a Letta, Alfano prova l'ultima mediazione con Berlusconi, questo è il titolo, ma si parla anche della manovra, il governo Letta cade, la manovrina si fa lo stesso, fondi europei e cassa integrazione a rischio. Il Corriere della Sera, PDL nel caos, Berlusconi convoca Alfano. Tra le altre notizie che troviamo sui quotidiani, la Repubblica apre naturalmente con l'intervista di Scalfari al Papa, il Papa così cambierò la Chiesa, dialogo con Scalfari, apriamoci alla modernità. Dal Fatto Quotidiano, dal sito del Fatto Quotidiano, una notizia interessante, la crisi di governo, le missioni militari italiane all'estero da oggi sono illegali, l'ultima proroga è scaduta il 30 settembre, ma dopo lo strappo di Berlusconi il Parlamento è bloccato. Ai nostri soldati non salta soltanto la copertura finanziaria, ma anche quella politica. PDL in primo piano anche sulla prima pagina di Lettera, sull'home page di Lettera 43, mentre invece il Post apre con una guida minima all'aumento dell'IVA. E adesso è il momento, ne abbiamo parlato già prima naturalmente, ma è al centro anche oggi di America 24 con Mario Platero, si parla naturalmente del cosiddetto shutdown. Dunque, buongiorno a Mario Platero da New York. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da New York. Mario Platero, Simone, come dicevi, lo shutdown, il governo americano ha chiuso i battenti, la soluzione dell'ultimo istante non è stata possibile. Vediamo dunque di ricostruire che cosa è successo negli ultimi istanti utili, quelli in cui si sperava che magari qualcosa potesse davvero succedere. Today we are considering a measure to fund government only if the Democratic Senate and Democratic President will agree to dismantle the health care reform law that will help millions of Americans access quality affordable care. Un voto chiave alla Camera, è stato l'ultimo voto, erano circa le 7:20 ora americane, 1:20 del mattino ora italiana. Cosa è successo? Che a un certo punto i democratici, d'accordo con una larga parte di repubblicani, hanno cercato un colpo di mano per poter passare una proposta di legge che evitasse la chiusura del governo americano. Si contava sul, chiamiamolo tradimento, diciamolo pure, tradimento di alcuni repubblicani, e ci si è quasi arrivati, ma non abbastanza vicini. Pensate, nei conti che avevano fatto mancavano soltanto 17 voti di repubblicani, e molte volte c'è stato un voto trasversale all'interno del Congresso americano, della Camera americana. Ebbene, che è successo? Di quei 17 che sembrava fossero pronti a votare, hanno votato soltanto 6. Dunque, per una differenza di 11 voti non è stato possibile raggiungere un compromesso che avrebbe consentito al governo di andare avanti. Ecco, dopodiché, e poco più tardi in serata, la legge è tornata al Senato, e al Senato naturalmente si è respinta questa proposta che arrivava dalla Camera dei Repubblicani, che aveva come mozione principale un obiettivo, quello di smantellare l'Obamacare, il piano sanitario del presidente americano. The idea of putting the American people's hard-earned progress at risk is the height of irresponsibility. And it doesn't have to happen. Let me repeat this. It does not have to happen. Barack Obama, un appello alla nazione, un appello ai repubblicani perché riuscissero a trovare un punto di contatto. Poco dopo il presidente ha riunito il suo consiglio di ministri e con ciascuno ha esaminato quale sarebbe stato l'impatto di questa chiusura del governo americano. E dunque vediamo quali sono le conseguenze di questo shutdown, di questa chiusura, che deriva dal fatto che il Congresso non è riuscito a mettersi d'accordo sul bilancio per il 2014. Ieri notte, alla mezzanotte, era l'ultimo giorno di settembre, l'anno fiscale americano si chiude il 30 di settembre, il 1 di ottobre parte quello nuovo. Nel momento in cui non c'è un bilancio, non ci sono i fondi per pagare i servizi pubblici fondamentali. In tutto centinaia di migliaia di impiegati federali definiti non essenziali, stiamo parlando di circa 800.000 persone, da questa mattina staranno a casa senza uno stipendio. Ma non è soltanto l'impatto economico che preoccupa, è questo clima avvelenato, perché c'è una seconda fase in questa crisi. Fra due settimane, diciamo entro il 17 di ottobre, i parlamentari americani dovrebbero innalzare il tetto sul debito, attualmente a 16.700 miliardi di dollari, ma se non si riuscirà a trovare un accordo su questo punto, proprio come vi dicevo per questo clima avvelenato, c'è un altro rischio. Oltre alla chiusura del governo, ci sarà il default del governo americano, insomma un 1-2 che a quel punto potrebbe davvero avere un effetto devastante sui mercati. Tra le altre cose che non funzioneranno, alcuni dipartimenti, per esempio quello del lavoro, non pubblicherà, se continuerà la chiusura, ricordiamolo, ogni ora è buona per rimettersi d'accordo, non pubblicherà il dato sulla disoccupazione, quindi i mercati saranno un po' smarriti. I mercati, che devo dire, hanno reagito per ora abbastanza bene, c'è stata una perdita di circa lo 0,8% ieri per l'indice Dow Jones, ma l'impatto sull'economia, se questa chiusura dovrebbe continuare, sarà molto negativo. Si calcola un impatto negativo di 55 miliardi di dollari. Tutto questo perché? Come vi dicevo, oggi è un'altra giornata storica per l'America, perché entra in vigore la riforma sanitaria di Barack Obama. Even the president uses the term, because you need to either have health insurance, buy private insurance through a government marketplace, or pay a penalty, you probably have some questions. Riforma sanitaria, ne abbiamo parlato a lungo, 48 milioni di americani sono senza assistenza medica. Finalmente nel 2010 Barack Obama, con un gravissimo costo politico, è riuscito a far passare la sua proposta di riforma sanitaria, controversa perché alcuni dicono che avrà dei costi esplosivi e incontrollati. I repubblicani dicono che si sta creando un mostro che nel giro di 10 anni porterebbe a costi di 1.400 miliardi di dollari che non sono finanziati, e schiaccerà dei cittadini che saranno obbligati a comprare una polizza. Perché? In che modo? Perché oggi nascono questi controversi exchange, sono dei veri e propri mercati elettronici delle polizze che sono stati creati in 48 stati, e il governo stima che 7 milioni di americani soltanto nel primo anno si iscriveranno a questi exchanges per cercare la migliore occasione per comprare una polizza, visto che c'è l'obbligo di comprare queste polizze, potrebbero costare anche 360-380 dollari al mese, una cifra comunque non irrilevante per chi deve arrivare alla fine del mese con stipendi molto molto stretti. Soprattutto Obama vuole alzare il livello del Medicare, europei di livello di assistenza per i più poveri, ha formulato delle ipotesi secondo cui molti più americani potrebbero avere questi aiuti. We will not be fooled by half measures that merely provide a smokescreen for Iran's continual pursuit of nuclear weapons, and the world should not be fooled either. Bibi Netanyahu, primo ministro israeliano, ha detto a Barack Obama di non fidarsi dell'Iran, addirittura ha chiesto al presidente di inasprire le sanzioni prima di fare delle concessioni. Ha cercato in qualche modo Netanyahu di mettere in guardia la Casa Bianca. Dell'Iran non c'è da fidarsi, troppe volte in passato ha cercato di fare delle aperture per poi approfittare del tempo conquistato, della pausa conquistata, per poter procedere più rapidamente e tranquillamente nel suo progetto di costruire una bomba atomica. Ecco, questo è l'unico dubbio ovviamente aperto nei confronti dell'Iran, ma nel frattempo il presidente Rouhani ha rilanciato, ha detto riapriamo le linee aeree dirette fra Teheran e New York, è dal 1979 che sono bloccate. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. È morta ieri Marcella Hasan, era una donna straordinaria, pensate, è la donna che ha portato la vera cucina italiana negli Stati Uniti, un po' il capostipite dei grandi cuochi che sono venuti dopo, da Mario Battali a Linda Bastianich. È arrivata qui negli anni 50, era di Cesenatico. Pensate, la famiglia ha detto che torneranno proprio a Cesenatico a cospargere le sue ceneri nell'Adriatico. A lei e all'italianità in America vogliamo dedicare la canzone del giorno, la zia, tra l'altro, dell'attore George Clooney, Mambo Italiano. E Mambo! Mambo, e neanche oggi, Mario Platero, ce la facciamo a sentire la canzone. Dobbiamo chiudere. Grazie a Filippo Aureggi in regia, Laura Fagini in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci sentiamo domani. Ricordati! Mancano 76 giorni al pagamento della seconda rata IMU.